Salva Danaio di Deborah Rosciani. Buona giornata da Deborah Rosciani e bentrovati a Salva Danaio. Per gran parte delle famiglie l'acquisto della casa è il più grande e più importante investimento della propria vita ed è abbastanza naturale che quando ci si approccia a questa operazione non si abbiano le condizioni emotive giuste per prendere in considerazione tutti gli aspetti legati alla compravendita. Scegliamo i metri quadri, guardiamo, sicuramente ed è giusto farlo, la qualità estetica dell'immobile, andiamo in banca a chiedere se sono disponibili a darci il mutuo e crediamo che sia tutto fatto. Invece l'acquisto della casa è un processo molto più complesso, nel corso del quale ci sono tanti passaggi a cui prestare grande attenzione. Attenzioni diverse in relazione alla tipologia della casa, usata o di nuova costruzione. Attenzioni relative ai costi dell'operazione, alcune dei quali spesso non ci sono noti o non ci sono chiari. Allora, il Sole 24 Ore ha pubblicato qualche giorno fa un nuovo libro della collana Giunti, Obiettivo Risparmio. Il titolo è proprio I passi fondamentali per comprar casa. L'autore è peraltro un ospite molto frequente di Salva Danaio, Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, bentornato. Grazie della presentazione, buongiorno a lei e anche a tutti i nostri ospiti. Vanno a ruba queste pubblicazioni con il Sole, dottor Breglia, perché naturalmente noi tra l'altro in questi ultimi mesi abbiamo dedicato tantissima attenzione a tutte quelle famiglie che erano in difficoltà col mutuo e quindi che la casa l'avevano già comprata. Abbiamo trascurato forse un po' troppo chi invece questo passo si accinge a farlo adesso, si sta guardando intorno per fare tutte le valutazioni che appunto il mercato immobiliare merita, forse anche da questo punto di vista un momento molto interessante. Ma il dottor Breglia è soprattutto specializzato, anche se poi nel libro ha scritto su tutti gli argomenti, è particolarmente specializzato sull'andamento del mercato immobiliare. Allora noi avevamo anche oggi bisogno di un supporto tecnico e quindi bentornato a Salva Danaio a Domenico De Stefano, presidente del Consiglio Notarile di Milano. Bentornato. Grazie, buongiorno. 800 24 00 24 è il numero verde per i vostri interventi, per le vostre domande. Allora, quali sono i dubbi che, come dire, un po' circondano in questo momento la vostra scelta? Vi state guardando attorno? Avete già individuato quella che potrà essere la casa della vostra vita, ma non avete ancora ben capito se, oltre al prezzo pattuito magari con il venditore, dovete affrontare anche altri impegni economici e quindi quali sono proprio tutti gli impegni legati alla compravendita dell'immobile. Cercheremo di sciogliere questi nodi stamattina rispondendo in diretta alle vostre domande oppure rispondendo ai messaggi che ci invierete al 349 238 6666. La borsa, ieri ne abbiamo parlato lungamente a Salva Danaio dedicando tutta la puntata all'andamento dei mercati finanziari. Dopo la giornata incerta di ieri, il brusco scivolone di lunedì, oggi abbiamo un altro scivolone. C'è un calo di oltre un punto e mezzo su tutte le piazze finanziarie europee, particolarmente per Piazza Affari, che è arrivata a perdere 2 punti percentuali. Adesso abbiamo un calo dell'1,7%. E i cali più forti stamattina sono tutti sul settore auto in tutta Europa, e quindi anche Fiat ne subisce le conseguenze, meno 5,27% in questo momento per il lingotto. E anche Exor, l'azionista di riferimento, perde il 3,64%. I peggiori titoli, il peggiore però in assoluto non è Fiat e Buzzi Unice, ma adesso quindi Cemento oggi in difficoltà, meno 5,51, Italcementi meno 3,81, abbiamo un calo anche di 4 punti per Pirelli, meno 3 punti e mezzo per Saipem e per Fondiaria, Autogrill meno 3 e c'è tutta una serie di titoli che perdono circa 3 punti percentuali, Mediaset, il Banco Popolare, Mediobanca, oggi riunione dell'Assemblea degli Azionisti e insomma non abbiamo proprio un quadro confortante di nuovo neanche per il settore bancario, già ieri protagonista negativo assoluto della giornata in borsa. Resiste alla pioggia di vendite Snam e Retegas in rialzo dell'1,78%, Terna più 0,5%, Parmalat più 0,11%. Di tutto questo ne approfitta il dollaro che sta recuperando sull'euro a 1,47,80. Lasciamo la borsa, andiamo al tema di oggi. Oggi parliamo dei passi fondamentali per comprare casa. Quando si decide di comprare una casa, il rogito appare lontano, quasi un miraggio. Infatti, tra la decisione di investire i propri risparmi per acquistare un immobile e il momento in cui si mette la firma sull'atto di compravendita davanti al notaio, c'è un vero percorso a ostacoli da superare. Quali sono i passi principali da seguire? Innanzitutto, è bene procedere senza fretta, valutando ciò che potrebbe essere più adatto alle proprie esigenze. Una volta individuata la casa giusta, è importante valutare il prezzo in base alle proprie finanze ed effettuare tutte le verifiche necessarie per evitare brutte sorprese in seguito. Dalla visita della casa in orari diversi della giornata, per controllarne per esempio luminosità e rumori, al controllo delle spese condominiali. A questo proposito, è bene accertarsi che il precedente proprietario non abbia spese arretrate da saldare. Una volta stabilito che la casa è proprio quella che vorremmo, prima di procedere al compromesso, e quindi al rogito, è indispensabile fare una serie di controlli anche dal punto di vista legale presso il catasto e la conservatoria dei registri immobiliari per accertarsi che sia tutto in ordine. È bene infine stabilire con precisione il metodo di pagamento che viene stabilito con un accordo tra le parti. Si va dal tradizionale pagamento ripartito in più rate, tra la firma del compromesso e quella del rogito, a quello in contanti alla consegna. 800 24 0024, vi ricordo il numero verde per le vostre domande. Allora comincio subito con Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari. Fra le premesse del libro, dottor Breglia, c'è questa: nonostante le difficoltà derivanti dalla precarietà dei redditi e dalla maggiore selettività delle banche nella concessione di mutui, l'acquisto di una casa continua ad essere l'investimento principe nel nostro paese. Quindi le chiedo, la crisi del credito, secondo il suo giudizio, secondo il suo osservatorio, e nonostante l'evidente calo del numero delle compravendite che comunque da un anno e mezzo affrontiamo, non ha scalfito comunque complessivamente la fiducia dell'italiano verso il mattone? No, assolutamente no, anzi, le notizie che abbiamo sentito sul cattivo andamento della borsa non sono altro che buone notizie per chi vuole investire nel settore immobiliare, perché è un investimento che nel tempo preserva sempre il capitale investito, e poi se si è fortunati può anche rivalutarsi secondo il tipo di immobile, secondo la zona, però noi sappiamo ormai con certezza matematica che qualsiasi sia il momento di acquisto, dopo 10 anni non si è perso un euro o una lira del valore investito in precedenza. Tra l'altro è uno studio che proprio abbiamo Riportato nel libro, peraltro, no? Riportato nel libro, sì, poi l'ha ripreso ampiamente il Sole 24 Ore di un mesetto fa, qui c'erano tutte le varie statistiche che dimostravano questo. Con degli esempi, per esempio acquistando un immobile, ovviamente metratura abbastanza standard negli anni 80, che cosa è successo oggi e come si sono rivalutate anche gli altri asset di investimento rispetto invece alla rivalutazione di un immobile. Anche questo è un aspetto molto interessante. Noi abbiamo parlato, dottor Breglia, nella nostra scheda di percorso ad ostacoli, tra l'altro non so neanche se ha concluso la sua risposta. Abbiamo tenuto fuori dalla scheda tutto ciò che attiene invece, come dire, al passo precedente all'acquisto vero e proprio, quindi al rogito, e cioè tutti quei mesi che spendiamo per esempio per la trattativa, per pattuire il prezzo, la trattativa con il venditore al quale ci rivolgiamo e magari anche all'intermediazione, no? che spesso viene coinvolta, e anche quello è un altro aspetto importante. Sono molti aspetti, faceva piacere dare un numero a lei e anche ai vari ascoltatori che stanno magari pensando di mettersi in caccia o alla ricerca di un'abitazione. Ecco, le persone che in un anno cercano casa in Italia oscillano da 2 milioni a 2 milioni e 4, quindi, e di questi circa 700 mila poi completano, riescono a comprare l'abitazione in un anno, quindi il percorso è difficile, è lungo, e spesso non si trova l'abitazione che si desidera, non perché non si hanno i soldi, che allora in quel caso non si è neppure domanda, si è così nel regno dei desideri ma non delle possibilità, perché spesso non ci sono abitazioni adatte o abitazioni in ogni caso. Pensiamo ad esempio che questa situazione di mercato, che è difficile perché sono meno compravendite, le banche sono molto più rigide rispetto al passato nell'erogare il mutuo, è scesa la percentuale di denaro ottenibile sul valore dell'abitazione. Ecco, nonostante questo, noi rileviamo nei capoluoghi un calo dell'offerta di circa il 20% in un anno. Mm-hmm. Allora, sì, torneremo su questi aspetti nel corso della trasmissione, ma intanto, visto che abbiamo invitato anche il notaio Domenico De Stefano, e tra l'altro devo già ridare la linea anche alla regia per la nostra prima pausa, però magari 30 secondi, notaio, riesco a dedicarglieli. E noi parliamo di notaio durante la compravendita solo quando, cioè immaginiamo di dover incontrare questa figura solo quando stipuliamo ufficialmente l'atto di compravendita, cioè durante il momento del rogito. Ma questo è un messaggio che cerchiamo in ogni modo di far passare attraverso questi microfoni sempre. È forse bene che anche quando abbiamo individuato la casa dei nostri sogni, una visitina al notaio la facciamo anche molto prima di stipulare l'atto ufficiale dell'acquisto. Certamente sì. Prendiamo pure il toro dalle corna e il problema alla coda. Dal notaio bisogna andare per una serie di motivi che sono quelli della sicurezza del trasferimento immobiliare. I controlli a cui lei accennava prima devono essere fatti prima di fare il rogito e il notaio ha l'obbligo di farli. Andare dal notaio subito, cioè all'inizio della trattativa, oppure andarci alla fine della trattativa, quando già si sono presi impegni per iscritto, significa nel primo caso fare i controlli subito e farli fare al notaio, che li deve fare comunque. Nel secondo caso vuol dire farli fare due volte, una volta direttamente in proprio, la seconda volta da parte del notaio. Il notaio che fa questo lavoro è decisamente la posizione migliore per farli bene e in fretta. E infatti, e con calma. Beh, con fretta, sì. Oh, senza perdere tempo. Esatto, ecco, abbiamo trovato il giusto compromesso. A Salvadanaio, oggi i passi fondamentali per comprare casa. Questo è il titolo di una recente iniziativa editoriale del Sole 24 Ore, un nuovo libro della collana Giunti, il Sole 24 Ore, Obiettivo Risparmio. L'autore è con noi, Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, ma per darvi anche delle indicazioni pratiche su come comportarvi nel processo di compravendita dell'abitazione, abbiamo chiesto aiuto anche al notaio Domenico De Stefano. 800 24 00 24 si sono già scatenate al nostro numero verde le telefonate proprio sul ruolo, la parcella, il costo del notaio. Il notaio non è per niente sorpreso, ormai è anche abituato al nostro microfono a sentire un po' considerazioni di questo tipo. Allora sgombriamo subito il campo dagli equivoci intorno al ruolo del notaio e al prezzo che deve essere sostenuto per la sua consulenza. Luigi da Latina, buongiorno. Buongiorno. Benvenuto. Ci dica. Io volevo semplicemente sapere se il costo del notaio relativo sia al rogito che al mutuo, sì, è un costo in qualche modo stabilito da tariffe appunto prestabilito, oppure se è completamente a discrezione del notaio. La ringrazio, Luigi. Questo è stato un dibattito che ha tirato per il collo la categoria per tanto tempo negli ultimi anni. Adesso sentiremo a che punto siamo arrivati di questa discussione. Ci metto insieme anche la domanda di Lucia al 349-238-6666, che chiede proprio se la parcella del notaio è proporzionale al prezzo stabilito e in che misura. Notaio, da dove vuole cominciare? Il discorso non è semplice, ma cercheremo di semplificarlo. Come tutti i professionisti, anche i notai hanno una tariffa, per quella dei notai c'è un decreto ministeriale che la approva. La tariffa è legata all'esercizio della pubblica funzione e è stabilita quindi indirettamente dalla legge. Il complesso della prestazione del notaio, che è anche, oltre che quella di pubblica funzione di certificatore, è una prestazione professionale di consulenza, diventa poi remunerata complessivamente da una serie di voci. Queste tariffe erano inderogabili fino a quando è stata promulgata la legge Bersani, che è circa del 2007. Da quando c'è la legge Bersani, la tariffa è diventata in qualche modo più flessibile, nel senso che c'è uno zoccolo duro legato alla pubblica funzione che non può essere derogato, mentre sulla parte che riguarda la consulenza si possono, come dire, raggiungere accordi e cercare anche di trovare una via di mezzo tra l'esigenza del cliente e l'esigenza del notaio. La tariffa però non è fissa e proporzionale, la tariffa è progressiva per scaglioni. Cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che sale il valore diminuisce l'aliquota complessiva. Per dare un'idea in sintesi. Infatti, perché quando andiamo dal notaio a stipulare il rogito, come abbiamo già detto molte volte, e ovviamente ci si presenta un conto piuttosto salato, quasi tutti intendono che quel conto che paghiamo sia ascrivibile al termine onorario per il notaio, e invece paghiamo un bel po' di cose nella giornata del rogito. Assolutamente, è così. Si paga prima di tutto l'imposta di registro, che è dal 3 al 10% a seconda dei casi. Poi ci pagano una serie di imposte fisse e di spese fisse, per capirci le marche da bollo che ormai non si applicano più, tipo francobolli, ma si pagano ugualmente, e tanti altri diritti che riguardano i vari depositi, i vari controlli che si fanno presso i pubblici uffici dove il rogito viene depositato, che peraltro voi anticipate, che il notaio è tenuto a pagare quando anche non ricevesse i fondi da parte del cliente, e poi naturalmente si paga l'IVA sulla prestazione professionale. Per dare un'indicazione quantitativa, perché penso che sia questo che vuole l'ascoltatore, esatto, ma si sì, può anche dire, per avere un po' un parametro, certo, di riferimento quando la stessa già guardandosi intorno. L'onorario del notaio per la vendita, per un appartamento del valore di 200.000 euro, si aggira, euro più euro meno, attorno all'1%, quindi attorno ai 2.000 euro. Se poi c'è il mutuo, c'è anche un altro atto e un'altra parcella per la pratica di mutuo. Un'avvertenza: mentre nella vendita l'onorario del notaio è parametrato al prezzo, nel caso del mutuo è parametrato all'importo dell'ipoteca. L'ipoteca viene presa dalle banche, giustamente, sempre per un importo superiore a quello che è il debito. Se la banca mi presta 100.000 euro, vuole essere garantita mediamente per 150, perché se io non pago nulla, ora che la banca recupera il credito di 100.000 euro, tra interessi, spese per il recupero, il mio debito nei confronti della banca sarà quindi salito. La percentuale sull'ipoteca dell'onorario del notaio, più o meno su questa fascia è un altro 1%, ma forse qualcosa meno. No, sa perché le chiedo tutto questo? Perché a pagina 84 della guida I passi fondamentali per comprare casa, il dottor Breghi, adesso magari gli chiediamo un chiarimento per capire se ha fatto così un'indicazione a spanne, sostiene che mediamente per un bene di 200.000 euro l'onorario del notaio si può aggirare sui 6.000 euro. Come è arrivato a questa cifra, dottor Breglia? Un po' la somma di tutte le voci, appena un paio di casi concreti. Sì. No, ma infatti quindi non lo metto in dubbio, ci mancherebbe. Ognuno può essere diverso rispetto all'altro. La somma di tutte le voci, che poi il mutuo, le tasse, e quindi sotto, in realtà sotto la voce onorario spesso va anche tutto il resto che si paga al notaio e va anche allo Stato. Quindi, certo, insomma, quindi aveva fatto, come dire, un po' una definizione generica. Non abbiamo fatto la guida per i notai, ma certo, per i compratori. No, ma infatti, ma per carità, era solamente qualora qualcuno lo comprasse, e deve capire anche che sotto il termine notaio utilizzato in questa parte del libro, esatto, non viene esclusivamente diverse. Esatto. Quindi questo è il totale che un compratore tipo deve versare al notaio, di cui una parte abbiamo sentito va direttamente al professionista, il resto invece va in oneri e in spese varie. Dottor Breglia, c'è un'altra domanda che mi piace farle, perché adesso chiaramente stiamo osservando in maniera molto attenta quello che sta accadendo sul mercato immobiliare, perché molti che sono ovviamente hanno un po' di liquidità da parte magari stanno cercando di capire se è il momento giusto adesso per cogliere qualche buona occasione sul mercato, ma in termini generali, a prescindere dal momento storico che stiamo vivendo, che è abbastanza particolare, se dobbiamo scegliere una casa, come facciamo ad individuare, a chi ci affidiamo, il prezzo adeguato in funzione della zona e delle caratteristiche dell'immobile, tenendo conto del fatto che poi possiamo sempre assegnare una fetta di prezzo al nostro desiderio, possiamo sempre, come dire, scegliere una casa e quindi magari pattuire un prezzo un po' più alto perché noi vogliamo assolutamente quell'abitazione, anche se poi c'è una parte del suo libro molto carina su questo che poi voglio leggere, quindi il tema psicologico anche, no? Però proprio in termini generali, per dare la valutazione giusta, a chi ci rivolgiamo? Intanto l'aspetto psicologico incide molto, cioè l'acquisto di una casa è banalmente 50% emozione, cioè deve piacere questa casa, noi dobbiamo vedendola già immaginarci di vivere dentro noi, con la nostra famiglia, con i figli che magari avremo in futuro, e il resto è invece aspetto reale. Gli aspetti reali sono la proprietà, devo essere sicuro del bene che compro, la possibilità di pagarlo, quindi il mutuo, e poi il prezzo, che spesso è diciamo oggetto di una trattativa con chi vende l'abitazione. Non esiste un prezzo giusto, non è un mercato rigido, non è un mercato rigido, perché di solito si va con alcuni riferimenti che sono quelli noti sui giornali, ci sono dei tariffari, si possono trovare su internet facilmente, e quindi c'è un'idea del prezzo della zona, e quindi spesso può essere un buon punto di partenza. Sì, chi vede una casa oggi, chi cerca una casa oggi normalmente ne vede 20-30 prima di scegliere quella che veramente gli piace, e quindi dopo la seconda, la terza si diventa già dei piccoli professionisti, nell'acquisto. Mm. Quindi il prezzo da un lato dipende da, diciamo, dalla zona. È difficile in una zona in cui i prezzi vanno su 2-3 mila euro, una casa che sia più di 3.000 euro deve essere particolarmente bella. Però uno stabile di vecchia costruzione può essere collocato accanto ad un edificio di nuovissima costruzione e magari nel giro di un metro le quotazioni possono cambiare radicalmente. Questo non accade in tutte le città. Mm. Ad esempio Roma ha un mercato molto per quartieri. Milano ha questa situazione di un mercato che cambia molto da abitazione a abitazione, che ci sono le case bombardate, quelle ricostruite spesso non sono state di buon livello come quelle precedenti. Poi c'è la situazione del venditore, magari il venditore ha bisogno di vendere e quindi è disponibile a fare uno sconto e bisogna approfittare in quel caso avendo immediatamente disponibile una certa somma a titolo di caparra. E insomma ci sono tanti aspetti da considerare nei quali appunto il ruolo della psicologia non è di trascurabile importanza. Devo andare ai suggerimenti perché in viaggio, dottor Breglia, ma questa pagina 55 del suo libro sul tema proprio qual è il prezzo giusto la devo leggere. Bisogna cercare, lei dice, di ottenere un prezzo inferiore anche se di poco a quello richiesto dal venditore, come dire, comunque ci si deve provare sempre. Certo. In primo luogo è importante non dimostrarsi mai troppo interessati alla casa in questione, perché se il proprietario capisce che l'acquirente vuole quella casa a tutti i costi, molto probabilmente assumerà una linea dura sul prezzo. Lei invece, come dire, ce la mostrava dall'altra parte: se il venditore vuole vendere assolutamente, possiamo invece ottenere uno sconto, proprio perché ci si trova in una l'informazione è il cuore di ogni trattativa. Benissimo, la trattativa. Eccoci di nuovo a Salvadanaio e ancora tornando al nostro tema di oggi, passi fondamentali per comprare casa, all'800240024, la domanda di Maria Luisa da Monza. Maria Luisa. Buongiorno, allora io sono in procinto di acquistare una casa, in realtà ho già fatto la proposta di acquisto e sto aspettando praticamente la liberatoria della banca per l'erogazione del mutuo. Io ho praticamente fatto mettere una clausola nella proposta d'acquisto di modo che se la banca mi dice di no mi ridanno l'assegno di anticipo. Sì. E ognuno per la propria strada. Però io non ho capito ancora una cosa, perché vorrei sapere la differenza tra il valore catastale della casa e il valore commerciale, in quanto ho visto che praticamente mi hanno detto che al momento del rogito verrà messo il valore catastale, e invece vabbè, il valore commerciale ovviamente è più alto, e i due valori ovviamente incidono in maniera differente anche sull'eventuale IVA. Volevo quindi sapere che differenza c'è e se è una differenza legale. Grazie, ascolto la risposta per radio. Grazie a lei Maria Luisa. Notaio De Stefano, il tema del prezzo valore, no? Qua dobbiamo tirare in ballo. Per dare una risposta, sul quale voi avete scritto tante guide, peraltro. Sì. Però per dare una risposta alla signora Maria Luisa è necessario avere un'ulteriore informazione. La signora sta comprando da un privato o da un'impresa? Maria Luisa, l'abbiamo persa? Maria Luisa, possiamo diamo la risposta che faccia la tradizionale compravendita da privato. Allora, se compra da privato, la base imponibile, cioè l'importo sul quale viene calcolata l'imposta, è il valore catastale, che è la rendita catastale moltiplicata per 115,5 se è prima casa, per 126 se non è prima casa. Nel rogito sarà indicato il prezzo vero, non il valore commerciale, il prezzo vero, quanto la signora paga, e sarà indicato cos'è il valore catastale. Su questo valore catastale sarà liquidata l'imposta. Se si compra invece da impresa, non c'è questa facoltà. L'IVA non colpisce il valore, l'IVA colpisce il corrispettivo. Siccome la signora ha accennato al 4%, il 4% è l'aliquota IVA prima casa, io suppongo che la signora stia comprando da impresa. Se sta comprando da impresa, tutto quello che è pagato e non dichiarato costituisce il cosiddetto nero, che non è assolutamente legale. Direi non andrebbe neanche pronunciata questa parola in questa trasmissione. Mario Breglia, presidente di Scenari Immobiliari, ancora lo ricordo, l'autore del libro I passi fondamentali per comprare casa. Un capitolo molto interessante è dedicato a come trattare con le agenzie immobiliari e a come muoversi fra gli annunci. Quali sono le indicazioni più dirette che possiamo dare stamattina ai nostri ascoltatori? Beh, la prima indicazione è che l'agenzia immobiliare è un servizio che chi cerca un'abitazione paga, ma non c'è una tariffa rigida. nel senso che la gente di solito chiede una percentuale. In questo momento fortunatamente tutti stanno un po' riducendo le percentuali perché c'è meno lavoro, però anche questo fa parte della trattativa, quindi si può sicuramente prevedere di ridurre il costo, di ridurre il tempo, e questo è molto importante. Conviene dare sempre un incarico in esclusiva e non a più mediatori, perché questo fa in modo che chi si occupi prevalentemente di vendere una casa, chi cerca in genere non paga un'agenzia immobiliare per la ricerca, chi invece vende, soprattutto in un momento difficile come questo, spesso si affida all'agenzia immobiliare. Nelle città ormai più del 90% delle compravendite avvengono tramite agenzie immobiliari. Anche chi compra non è tenuto necessariamente a pagare l'agente immobiliare nelle percentuali in cui questo chiede, però è chiaro che se quell'abitazione gli interessa, non pagare l'agente immobiliare magari significa fare in modo che l'agente immobiliare non dia la proposta di acquisto al padrone di casa. Ecco, insomma, anche lì un altro ambito di trattativa sul quale si può lavorare. 800 24 00 24 per la domanda di Livia da Milano. Adesso che saluto Livia, benvenuta. Buongiorno, grazie per darmi questa possibilità. Io ho acquistato la mia prima casa usufruendo dell'imposta di registro ridotta per via dell'acquisto della prima casa. Vorrei sapere, e lì ho preso la residenza, sono obbligata a tenere la residenza per un certo numero di tempo, o nel caso io avessi una necessità di cambiare posso spostarmi da quella casa? Per un beneficio già acquisito, notaio. Notaio De Stefano. Non ha l'obbligo di tenere la residenza nella casa che ha acquistato. Ho capito. Perché il compravendita l'ha già fatta, sì. Avendo pagato l'imposta di registro ridotto. Sì, ma nessuno le verrà a chiedere se la situazione cambia di restituire, anche perché voglio dire, non è che abitiamo tutti nella stessa casa per lo stesso, per sempre, notaio, quindi... Da quanto tempo ha comprato questa casa, signora? Dal marzo di quest'anno. Allora, quindi lei ha acquistato la casa nel marzo di quest'anno, aveva già la residenza nel medesimo comune? No. L'ho portata da un altro comune, e l'ha acquisita definitivamente. Oggi il comune le fa il certificato di residenza con il comune del comune in cui ha comprato la casa. Sì. Lei può trasferire la residenza. L'unico problema a cui va incontro è per il caso in cui lei vendesse questa casa prima di 5 anni da quando l'ha acquistata. Perché se lei compra una casa e la vende prima dei 5 anni e per più della metà del tempo in cui l'ha detenuta non ha avuto la residenza, si considera questa operazione speculativa e pagherà le imposte sulla differenza tra il costo e il ricavo. Okay. Mentre chi compra la casa per abitarci e quindi ha la residenza in questa casa per più di metà del tempo in cui l'ha detenuta, non paga le imposte, anche se tra quando compra e quando vende realizza un guadagno. Ho capito, grazie. Grazie Livia, grazie a lei. Allora concludiamo con Giuseppe da Viterbo, se ce la facciamo. Ha un atto di compravendita nel pomeriggio, Giuseppe? Sì, buongiorno, aspetta. Io oggi devo fare una vendere un appartamento qui a Viterbo. Sì, compra o vende lei, Giuseppe? Pronto? Lei compra o vende? La sento, Giuseppe. Lei compra o vende? No, vendo l'appartamento. Benissimo. Io sono rimasto vedovo da 3 anni. Sì. Però io ieri ho parlato con un notaio, mi ha detto tocca parlare con gli eredi della mia moglie. Sì. Però la parte di mia moglie stanno tutte all'estero. Ho capito. Devo interpellare tutte le eredi delle mie mogli per vendere questo appartamento. Allora, aspetti un attimo, guardi, noi abbiamo 30 secondi di tempo a esaminare questo caso e ci risulta un po' complesso. Detto questo, notaio De Stefano, questo notaio si è accorto un po' tardi di questa situazione. Due ore prima del rogito, glielo dice? Dipende da quando gli hanno portato i documenti della proprietà. Comunque, se una persona muore senza figli, e lasciando però un vedovo o una vedova, insieme al vedovo o alla vedova concorrono all'eredità anche i parenti. Comunque non riusciamo questa mattina a esplorare. Fare niente. No, infatti, comunque a esplorare anche l'ambito dell'eredità delle successioni stamattina non è nostro compito. Magari se ci vuole scrivere l'ascoltatore, ma da qui a due ore non ce la faremo ad accontentarlo sicuramente. In ogni caso, per tutto ciò che attiene alla compravendita della casa, l'ABC lo trovate in questo libro, l'autore è Mario Breglia. Presidente, grazie per essere stato con noi, ci risentiamo presto. Grazie a lei e complimenti. Tanto ogni tanto con gli osservatori di scenari immobiliari Mario Breglia torna da noi. Notaio De Stefano, grazie anche a lei. Sa che le girerò un sacco di domande oggi pomeriggio. Grazie, con piacere risponderemo. E buon lavoro naturalmente. Noi invece di Salvadanaio torniamo domani. Buona giornata a tutti. Salvadanaio.